Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti all'ottavo episodio di Curiosità Animate, dove parlerò dei classici Disney. Oggi parleremo di un altro classico che si chiama Musica Maestro. Il film è stato distribuito dagli studios nel 1946 ed è considerato l'ottavo classico Disney. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il personale degli studios si era dimezzato, perché ovviamente c'era la guerra e quindi si dovevano arruolare. È per questo che gli studios produrranno in questi anni lungometraggi formati da segmenti, che non avevano bisogno di una grande trama, ma avevano una certa continuità. Il film in questione è diviso in 10 segmenti, tutti uniti dalla rappresentazione della colonna musicale. Quindi fondamentalmente, come per fantasia, la colonna sonora era il punto centrale di tutto il film. Interessante elemento di questo lungometraggio sono quindi le differenti scelte musicali, che alternano musica leggera, come per esempio per il primo episodio, i testoni e Usacagna, che nella versione originale era cantato dal gruppo radiofonico Kingsmen, mentre per quella italiana dal quartetto Cetra. E poi alternavano anche musica classica, musica rock, jazz e tanti altri tipi, anche folcloristica. Lo stile dei lungometraggi collettivi vede con Musica Maestro una grande fusione fra uno stile jazz e swing, visibile anche per esempio in Saludos Amigos. Alcuni segmenti prima dovevano essere destinati a fantasia, però siccome non sono entrati nell'insieme del film, li hanno inseriti poi per Musica Maestro, comunque per poter rilasciare un film abbastanza lungo e continuo, come per esempio Palude Blu. Il film, che vede fra i direttori anche Jack Kinney, alternava sia momenti d'animazione che momenti live action, come per esempio l'ausilio di due ballerini per il segmento di Due Silhouette. Il film in generale fu accolto positivamente, ma fu molto più apprezzato in seguito ovviamente, anche a causa proprio della distribuzione, siccome c'era la Seconda Guerra Mondiale non tutti erano stati in grado di vederlo. E quindi vinse al Festival di Cannes nel 1946, fu l'unico premio che ebbe in quell'anno. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo al prossimo episodio di Curiosità Animate.